fa piacere essere qua, anche perché questo seminario è particolarmente, a parte il mio contributo, ma questa idea che secondo me è centrale, invece non è molto comune in ambito accademico stricto sensu, cioè che per studiare la modernità è, occorre guardarla da diversi punti di vista disciplinari, non solo i filosofi dunque, ma qua ci sono gli storici, gli studiosi del diritto, i sociologi, e questo non è un caso, perché la modernità è un animale complicato. È complicato anche quanto si guarda al tema che devo declinare qui, ossia dei rapporti tra la modernità, cominciare dal 600, e il concetto di azione. Qui veramente la modernità è ambivalente. Esistono diversi modi a cui rispondere alla domanda che rapporto c'è, qual è il rapporto tra le categorie concettuali della modernità e quella costellazione, quella galassia concettuale che ruota attorno al concetto di azione. La risposta più tradizionale è questa. Sostanzialmente si tratta di un'endiadi, cioè di una coppia di termini, modernità e azione, che sono quasi la stessa cosa. Cioè, per comprendere modernità dobbiamo comprendere cos'è azione, e viceversa azione la capiscono solo i moderni. Questa è una storia che secondo me ha un fondamento, ma non dice completamente come stanno le cose. La dico in breve. Quello appunto, secondo me, come si può svolgere il tema in questo modo, cioè di dire filosofia, modernità e azione sono la stessa cosa. Beh, si potrebbe dire così. Nell'antichità si comincia con Parmenide. E per Parmenide non ci può essere cambiamento di nessun genere. L'essere è eterno, immutabile, e quindi il cambiamento è mera apparenza. A fortiori sono mera apparenza le azioni. C'è un filone fondamentale del platonismo per cui questa concezione per cui l'azione in fondo non c'è o è del tutto subordinata all'essere, si trasmette alla tradizione antica, medievale, in parte anche a quella moderna. Inizia con il Filebo, che è un testo cardine di Platone, dove Platone sostanzialmente dice che il bene è chiuso in se stesso. Il bene guarda, anzi, come dice più tardi la tradizione riporta la cosa, dandovi un connotato religioso, ma nel Medioevo a questo filone del platonismo, dice Dio è chiuso in se stesso e sostanzialmente a sprezzo del mondo sensibile. E quindi tutto ciò che accade nel mondo sensibile, incluse le azioni. Paradossalmente, su questo punto, su questa interpretazione, per cui l'azione è del tutto subordinata all'essere, non ha veramente rilevanza ontologica, non ha veramente una dignità ontologica completa rispetto all'essere, sì, è un filone che svaluta l'azione, insomma, in qualche modo anche paradossalmente Aristotele si può collocare, perché Aristotele nelle categorie, che come sapete sono lo studio dei predicati fondamentali, dice effettivamente l'azione, i predicati dell'agire, le categorie dell'agire sono subordinate, come tutte le altre categorie, all'essere, alla sostanza. E lo stesso dice nella metafisica, c'è l'essere, che è ciò che è lì, e poi ci sono le sue affezioni, i suoi attributi e le sue modificazioni, e tra questi appunto l'agire umano. Però appunto, come questa tradizione, che parte sia da un filone platonico, sia da Aristotele, viene condensata nel Medioevo da una formula scolastica ripetuta decine di volte. Agere sequitur ad esse, oppure operari sequitur ad esse, cioè c'è l'essere come categoria fondamentale e dopo c'è l'agire, viene dopo come conseguenza, quasi come scaturigine non necessaria. Questo ha conseguenze importanti dal punto di vista, per esempio, etico. Non è un caso che nel Medioevo vi sia l'atteggiamento, la pratica esistenziale fondamentale per la maggior parte degli autori sia quella della contemplazione, che è l'opposto dell'azione. Perché? Perché appunto l'azione è qualcosa che contamina la purezza della vita contemplativa. C'è questo atteggiamento, Lovejoy, per esempio, un importantissimo storico della filosofia, lo chiama quello del contemptus mundi, dello sprezzo del mondo, di tutto ciò che avviene nel mondo, appunto dell'agire mondano a danno del distacco dal mondo. Quindi le attività degli esseri umani sono in qualche modo un modo di tradire la vera condotta di vita, che è appunto incarnata per esempio dal monachesimo, no? Per cui è ritirarsi dal mondo. L'agire è qualcosa che deprezza la vita umana. Pensate, in questo senso è importante una paroetimologia alto medievale dei Vittorini, per cui loro dicono che tutte le arti meccaniche, a proposito delle arti meccaniche, danno una falsa etimologia, cioè dicono mechanicus viene da mecari, che in greco vuol dire adulterio, è l'adulterio della ragione, perché se tu usi le tue mani, pecchi contro la ragione, se tu agisci, pecchi contro la ragione. Questo è un atteggiamento che cambia, forse non è abbastanza sottolineato dai filosofi, cambia con gli artisti italiani del 300 e del 400, poi dopo con la rivoluzione scientifica, ovviamente, con Galileo, la sperimentazione e con l'enciclopedia, questo cambia radicalmente. Però è l'atteggiamento che c'è fino alle soglie della modernità, è l'atteggiamento principale, per cui appunto l'azione è subordinata all'essere e dal punto di vista etico l'agire è qualcosa di in fondo non commendevole. Estremo propagine di questa concezione è Schopenhauer, perché Schopenhauer sostiene che la voluntas vivendi è ingannevole, la volontà di vivere, di agire è ingannevole, e anzi lui proprio, a conferma di questa interpretazione, ripete per la 1001ª volta il detto che dicevo prima, operari seguitur ad esse, e lo sottoscrive. Per lui c'è l'essere e poi c'è l'illusione di agire. E questa è una concezione per cui dice questo è fino alle soglie della modernità. Poi cambia qualcosa con il moderno, cambia radicalmente. Però cambia con un altro filone del platonismo, un secondo filone, che comincia con il Timeo, che è un dialogo diverso dagli altri dialoghi di Platone. Un dialogo in cui la concezione dell'essere è sostanzialmente diversa. L'idea lì che è condensata da un famoso detto medievale, omne bonum est diffusivum sui. Tutto ciò che è buono si deve produrre, deve creare, deve agire. Questa è un'idea diversa dal bene del filebo. Il buono è ciò che necessariamente si espande, crea, agisce. E qui origina il neoplatonismo. Da qui, che è una concezione in cui l'essere necessariamente agisce. E qui allora azione ed essere coincidono. E comincia un radicale cambiamento che passa da Spinoza, prima da Giordano Bruno, poi Spinoza e Leibniz. Ed arriva quindi all'idea che sostanzialmente l'essere e l'agire siano tutt'uno. Non si può concepire l'essere senza un dinamismo intrinseco nell'essere. D'altra parte, ovviamente, questo agire ha bisogno di un essere come sostrato, però sono indiscernibili. Però non finisce qui l'emancipazione dell'azione rispetto all'essere nella modernità. In questa, che ripeto, è una visione unilaterale però, e poi dirò perché. La visione, ripeto, che sto descrivendo è quella canonica per cui l'agire segna la modernità. Finalmente la modernità si appropria delle categorie concettuali che servono per comprendere l'azione. Prima non era possibile, adesso è possibile e il problema è risolto. La terza tappa di questa lettura unilaterale è quella che comincia con Fichte e soprattutto con Goethe. Perché Goethe, e qui è centrale, è l'assertore di una concezione per cui prima c'è l'azione e poi c'è l'essere. Che, come dire, è qualcosa che si può ricostruire a posteriori ogni volta, considerato il panteismo intrinseco nella realtà. E Goethe, che è un genio della letteratura, naturalmente, oltre che un filosofo di portata e anche scienziato in qualche modo, traduce come sapete, nel Faust, a un certo punto Faust si mette lì e decide di tradurre il Vangelo di Giovanni, però siccome è Faust, è un po' originale, e invece pensa che ti ripensa, invece di tradurre l'incipit in principio del verbo, traduttore, traditore, lo traduce anche, in principio era l'azione. Cioè, lui si inventa un'interpretazione del Vangelo di Giovanni, e per cui sostanzialmente Giovanni avrebbe, quello che voleva veramente intendere, è che c'è l'azione, il dinamismo della creazione continua, e poi ne segue l'essere, come in qualche modo viene dopo, è qualcosa che dobbiamo assumere considerato che c'è l'azione, che c'è l'agire. Sappiamo tutti che Goethe ha una concezione panteistica, antimeccanicistica, dinamica della realtà, il suo arcinemico è Newton, il Newton ufficiale, perché come sapete esiste un Newton esoterico, un Newton alchimista quasi, che però Goethe non conosceva e quindi lui guardava il Newton ufficiale e il suo arcinemico. Ed è interessante vedere che questa concezione per cui di Goethe, questa concezione goetiana, è ripresa pari pari da Wittgenstein. Ci sono dei punti in cui Wittgenstein dice in principio era l'azione, quello che facendo riferimento alla sua famosa teoria dei giochi linguistici. Comunque qui non voglio addentrarmi su questo, voglio dire che questa storia si conclude dicendo da Goethe e Fichte comincia un nuovo filone, filosofia dello spirito, filosofia della storia, in cui finalmente la filosofia si appropria delle categorie dell'agire, d'accordo? Le concettualizza, le concepisce. Perché? Perché le toglie dal rapporto di subordinazione rispetto all'essere. Però ho detto che questa è una lectio facilior, non può essere tutta la verità. E perché non può essere tutta la verità? Beh, per capirlo basta guardare la terza antinomia della critica della ragion pura. Lì Kant dice, un momento, questa non può essere tutta la storia. Certo, noi ci dobbiamo immaginare come agenti, come causa sui. Lui pensa agli esseri umani, in quanto responsabili, sono liberi e agiscono senza essere determinati. Quindi paradigma proprio dell'agire, no? Senza determinazione. Così ci dobbiamo concepire. E però poi aggiunge, se però così fosse la situazione nel mondo fenomenico, non potremmo più concettualizzare la realtà. Perché la libertà è una facoltà anarchica, lo scrive proprio nella critica della ragion pura, è una facoltà anarchica che in qualche modo altera il determinismo della natura. Lui è un newtoniano. Per lui è essenziale, newtoniano, kantiano, per cui è essenziale per noi concettualizzare il mondo concependolo come una catena ininterrotta di catene causali. Ininterrotta, se intervenisse un agente che liberamente inizia nuove catene causali senza essere determinato, non potremmo più comprendere la realtà. E allora che vuol dire? Sapete la risposta? La risposta è che bisogna collocarsi sul piano noumenico e immaginare la libertà come ratio essendi della responsabilità morale, qualcosa che dobbiamo postulare per comprenderci come esseri morali. E però resta lì questa antinomia. Che cosa ci vuole dire Kant? Che nella storia che ho detto prima, quella che ho chiamato l'idea dell'endiadi, si dimenticava il convitato di pietra che è la scienza moderna. Nella scienza moderna non c'è posto per i concetti della galassia concettuale dell'agire. Se prendiamo Newton, per esempio, Newton definisce azione, il Newton ufficiale, no? Quello scientifico, l'azione è semplicemente il fatto che movimento provoca, ogni azione di un corpo su un altro provoca una reazione. Azione e reazione, in modo deterministico, secondo le leggi di natura. Non c'è niente come quello che vuole dire Kant dell'azione, la gente causa sui, il fatto che siamo responsabili morali. Noi siamo enti di natura, siamo dentro la natura, ogni azione che facciamo ha degli effetti, ma sono effetti deterministici, come noi siamo causati interamente dalle leggi di natura. Chi lo capisce? Chi espande questo paradigma è Hume. Hume dice proprio questo. Lui vuole essere il Newton della morale. Cioè lui dice, guardate che noi non siamo fuori dalla natura, siamo dentro la natura e non ci può essere nulla come un agente che causa se stesso. Noi obbediamo alle stesse leggi di natura a cui obbediscono tutti gli altri agenti. D'altra parte, se quindi c'è una frattura netta tra la concezione dell'azione che ho detto prima, quella che dice, beh, modernità e azione vanno benissimo, e un altro frutto della modernità, che è la scienza moderna, è una collisione insanabile, antinomia. D'altra parte anche la storia che avevo detto prima ha qualche difficoltà. Pensate a Leibniz, un solo esempio, Leibniz, no? Leibniz dice, quando appunto portato ad esempio dell'idea che azione e modernità vanno tanto d'accordo, che dice Leibniz? Lui dice, la realtà è composta di monadi, che sono entità spirituali, del tutto chiuse in se stesse, che sono sempre in movimento dinamico, sono sempre in azione. Ma cos'è questa azione delle monadi? Siccome non sono fisiche, non possono agire le une sulle altre. L'agire delle monadi è la capacità di percepire le proprie rappresentazioni dell'universo senza poterci incidere causalmente. Le monadi non provocano nessun cambiamento nelle altre monadi. Sapete il famoso detto che le monadi non hanno finestre? Significa questo: nulla agisce su nulla. Quindi l'azione era tutta interna e il trionfo è la percezione, quando una monade può comprendere i suoi stati interni perfettamente, e questo può farlo solo Dio. Però per dire, Leibniz, l'azione, eccetera, l'azione significa rappresentazione. Non c'è niente come l'agire come lo interpretiamo noi. Dunque il problema era grosso. E c'è un altro errore nella storia che ho detto prima, quello che dice che modernità e azione vanno tanto bene. Quando si diceva che nell'antichità l'azione non aveva un luogo, non poteva essere espressa veramente perché non c'erano gli strumentari, era lo strumentario concettuale. Beh, però c'erano cose che poi si perdono con la scienza moderna. C'era l'idea, per esempio, chiara in Aristotele, delle cause finali. Quando noi diciamo che, per esempio, qualcuno fa qualcosa moralmente. Immaginiamo che lo stato di cose fosse desiderabile. Attribuiamo una causalità finale nell'agire, non soltanto una causalità efficiente. La causalità finale è essenziale nel concetto di azione morale, per esempio. Ebbene, questa cosa dopo Galileo nel mondo della natura non c'è più. Galileo dice proprio, ci sono solo le cause efficienti. E Darwin, e qua do la palla a uno dei massimi esperti italiani, cioè Orlando Franceschelli, fa la stessa cosa per la biologia. Ancora Kant pensa alla biologia in termini finalistici, di cause finali. Arriva Darwin e dice, manco per niente. Non c'è una cosa del genere, nemmeno in biologia. Cioè le cause finali vengono espunte del tutto dal mondo della natura. Ma noi agiamo nella natura, e allora come facciamo? Se non ci sono le cause finali. Inoltre, e qui Giacomo Marramao è maestro con i suoi libri sulla secolarizzazione, lo spazio dell'antichità fino al Rinascimento è uno spazio qualificato assiologicamente. Tempo e spazio sono qualificati assiologicamente nell'antichità. Cioè ogni cosa ha un suo opposto. Aristotele dice per esempio che il sopra è superiore al sotto, il destra alla sinistra, e vede gerarchie naturali ovunque, vede significati ovunque. E questo è quello che noi vediamo quando interpretiamo noi stessi come agenti. Noi immaginiamo che il mondo abbia per noi dei significati. Col disincanto del mondo, Tanne di Weber, legato alla modernità, i significati del mondo si perdono. E ci sono quelle pagine meravigliose di Tolstoi, La morte di Ivan Ilic, dove Tolstoi scrive che con la modernità, con il disincanto della modernità, almeno perde il senso la morte e perde il senso la vita. Come si può dire, per esempio, che l'ingiustizia nel mondo, utilizzando le categorie scientifiche della modernità, no? In cui noi, quello che ci accade, ciò che facciamo sono eventi di natura, allora perché certe cose dovrebbero rattristarci o no? Oppure dovrebbero muovere in noi il senso di ingiustizia? Come si può dire una cosa del genere con le categorie della scienza moderna? Non si può dire, perché è disincantato il mondo in quest'ottica. Questo è un secondo momento per cui, un secondo motivo per cui nel moderno, in verità, considerato il moderno come quello che è il prodotto della scienza naturale anche, non c'è molto spazio per i concetti che ci servono per capire l'agire. E poi non si può capire il libero arbitrio, ecco, questo ci ha accennato Giacomo, diventa veramente difficile. Il problema di Kant è questo: se noi immaginiamo che ogni mia azione, che io immagino libera, anche quelle che io immagino più libere, d'accordo? Non so, quando uno si sposa, quando si iscrive all'università, o anche quando decide che film vedere, bene, se queste azioni sono eventi interamente, come dice Laplace, interamente prevedibili, in linea di principio, un milione di anni fa, da un'intelligenza che avesse conosciuto lo stato dell'universo allora e le leggi di natura, bene, allora dov'è la mia libertà? Dov'è la mia possibilità di fare altrimenti? Questo non c'è nel mondo deterministico della fisica moderna, e non basta appellarsi alla meccanica quantistica, perché la meccanica quantistica vale per il mondo microatomico, subatomico, non vale per il mondo mesoscopico e macroscopico in cui siamo noi. Quindi non si può dire la libertà, e non si può dire neanche la normatività. La normatività è la categoria con cui noi giudichiamo della razionalità o della moralità delle azioni, giusto, sbagliato, buono, non buono, con quelle categorie della scienza non si può dire. Allora qui abbiamo una frattura, la lettura che avevamo detto prima non funziona più bene, è un ossimoro, da una parte c'è la modernità, diciamo, che esita in Goethe, e dall'altra c'è la modernità che esita nel Newton esoterico, pubblico. Per cui, nell'un caso, la modernità è l'azione, ma dimentica la scienza. Voi ricorderete che Goethe rifiuta completamente la scienza moderna. Si inventa una concezione, per esempio, di teoria della luce, che è opposta a quella di Newton. Non può tollerare l'idea che il mondo sia fatto di corpuscoli materiali, come pensava Newton. Non può tollerare l'idea che l'agire degli organismi biologici obbedisca a leggi deterministiche, perché lui ha in mente un universo finalistico. Certo che là c'entra bene l'azione, sono tutte categorie dello framework concettuale dell'azione, finalità, normatività, libertà, per Goethe è così il mondo, ma per Newton, il Newton ufficiale, non è così, per i positivisti dell'Ottocento non è così, per Quine, il massimo naturalista dello scorso secolo, non è così, per Quine sostanzialmente è vero quello che un grande fisico, una buttata attribuita a un grande fisico, che però riassume bene l'idea di Quine. There is physics and there is stamp collecting. C'è la fisica e c'è il collezionismo di francobolli, cioè tutto il resto le scienze sociali, la filosofia, la letteratura. È come il collezionismo di francobolli, passatempi, ma quello che conta è la fisica. Quello che la fisica ci dice del mondo, quello è ciò che c'è. E questo è un frutto della modernità anch'esso, pari a quell'altro. Cioè, quindi, la modernità di Goethe c'è quella degli scienziati. E come metterle insieme? Questo è un punto. Per concludere vorrei, più che risolvere il problema, perché ovviamente questo è il problema, della, secondo me è il massimo problema della filosofia dai tempi di Kant, un paio di citazioni da esperimenti oggi molto alla pace, pubblicati su due delle massime riviste scientifiche negli ultimi mesi, per dimostrare come l'aggressività del filone, diciamo così, eliminazionistico rispetto all'azione, siano oggi molto, molto di successo, molto popolari, cioè quel tipo di articoli che dicono, guardate che, questo, una nota di musicale, e due esperimenti. Il primo è questo, di Chapman e altri, apparso su Science due mesi fa. Questo Chapman che ha fatto, suscitando poi un notevolissimo dibattito, ha scoperto, forse poteva, si arriva al diapason, esatto. Che ti combina il Chapman? Il Chapman scrive su Science, la massima rivista scientifica mondiale, un articolo in cui, con una serie di dati empirici inconfutabili, poi però l'interpretazione secondo me è un po', è molto, molto criticabile. Chapman dice così, lui dice che quando noi siamo in presenza di situazioni moralmente disdicevoli, cioè si alza il nostro levator labi superior, cioè il nostro labbro superiore, e nello stesso modo in cui si alza quando vediamo un cibo che ci disgusta, non so, per cui, no, tu non mangi pollo, giusto? Per esempio Giacomo non mangia pollo, immagino, no, no, ma neanche il tacchino, non mangia, neanche, cioè non mangia nessuno, nessuno e niente, nessuno dei pennuti, ecco, non mangia i pennuti, i pennuti non li mangio, neanche lo struzzo, neanche quello, neanche, cioè neanche l'aquila se potessi. E allora, che cosa succede probabilmente a Giacomo Marramao o a chiunque di noi quando è di fronte a un cibo che gli repelle? Alza istintivamente il labbro superiore. Questo dicono i biologi, guardate, questo è frutto della selezione naturale, perché questo senso di ripugnanza manifestato ad alzare il labbro superiore è utile dal punto di vista dell'evoluzione, perché ci serve come segnale, attenzione, quel cibo è pericoloso, d'accordo? Per cui adesso noi lo facciamo con cibi che non ci piacciono, ma immaginate qualcuno che esplorava nuovi ambienti. L'eccezione di Poncinelli, che fa sempre in quel modo, poi dici, ma c'è qualcosa che non va? No, ho trovato fatto interessante. Esatto. Sempre, sempre con il labbro superiore. Labbro imbronciatissimo. E... bene, che ti fanno? Loro dicono, dunque, la stessa cosa vale per la morale. Loro dicono, la stessa, quando noi ci troviamo di fronte a una situazione moralmente disdicevole, solleviamo questo labbro. E questo dimostra che la morale, come diceva Hume, ha una base fisiologica fortissima, è legata alla ripugnanza, agli istinti, eccetera, eccetera. E l'articolo conclude dicendo, vedete, abbiamo naturalizzato la morale. Beh, il punto è che possiamo benissimo immaginare, anzitutto fatemi fare un esempio chiaro, cioè immaginiamoci di trovarci, per esempio di immaginare la situazione della povera Eluana due settimane fa, e di avere due schieramenti, da una parte Rodotà e gli amici che pensano, a mio giudizio, un fondamento che quella era una situazione non degna di essere vissuta e avrebbero sollevato il labbro all'idea di perpetuare lo stato di cose. E dall'altra, non so, D'Agostino e gli altri che invece pensavano che deve essere il buon Dio a chiudere il ciclo vitale delle persone e dei corpi, bene, questi avrebbero avuto il senso di ripugnanza quando invece si è, come dire, lasciato morire la persona. Quello che voglio dire, al di là della valutazione sul caso, quello che importa è che visioni morali opposte avrebbero comportato lo stesso atteggiamento. Quindi perché dovrebbe discriminare moralmente? Non è proprio, ed è ovvio, è quello che dicevo prima. Le spiegazioni naturalistiche basate sulla descrizione non possono dare conto della normatività. Ciò che conta sono le ragioni. Chi potrebbe dare ragioni a favore e chi contro, per esempio, la decisione di finire quell'esistenza. Le ragioni che portiamo. Dopo ognuno con i... quello è soltanto un correlato fisiologico che non ha nessuna rilevanza dal punto di vista strettamente morale. E poi c'è un altro punto che è cruciale, perché si può immaginare benissimo che qualcuno nonostante abbia questo sentimento, nonostante sollevi il labbro superiore, con la razionalità decida di compiere un'azione che gli ripugna. Per esempio, ma è un caso molto banale, immaginiamo che mi si avvicini qualcuno mal vestito, di un'etnia che non mi sta simpatica, che mi chiede aiuto. Io potrei sollevare il labbro, avere questo istinto, però poi moralmente dovrei dire devo vincermi, devo vincere l'istinto, devo vincere questa tendenza fisiologica a non aiutare questo perché mi sta antipatico. E questo dimostra di nuovo che la riduzione della moralità a questi istinti è ben al di là dall'avvenire, nonostante appunto il vasto commercio che si fa di esperimenti di questo, tipo. E l'ultima, secondo esperimento viene da un'altra rivista importante, Nature Neuroscience, altrettanto importante per le particolarmente la più importante per le neuroscienze, di aprile dello scorso anno, che ti hanno combinato questi scienziati, questi hanno detto, guardate, vi dimostriamo che il libero arbitrio è una balla. Ci sono i filosofi che ci sbattono da 2000 anni, arrivano questi e dimostrano che è una balla. Effettivamente lì per lì, se lo guardiamo, lascia un po' interdetti la cosa. Si chiede a un soggetto, ai soggetti sperimentali, hanno davanti due tasti e devono premere il bottone destro-sinistro. Gli si dice, tu nel prossimo minuto premerai il bottone destro-sinistro. Davanti hanno una specie di orologio, devono guardarlo e dicono, quando tu prendi, senti l'impulso a premere il destro, decidi quale dei due premere, dimmi quando è, che momento è. D'accordo? Quindi nel minuto successivo quello dice, ecco, ora ho deciso. Bene, gli sperimentatori hanno dimostrato che 10, con una risonanza magnetica funzionale, 10 secondi prima che il soggetto sentisse l'impulso a premere destro o sinistro, loro già potevano prevedere quale dei due tasti avrebbe premuto. 10 secondi prima. D'accordo? Conclusione, beh, la verità, ragazzi, non c'è. Verità, le cose non sono così semplici. Ed è stato, guardate, questo articolo è dibattutissimo, per esempio il Corriere della Sera, non solo molto dibattuto in ambito scientifico, ma anche sui media. Il Corriere della Sera, i media, anzi, so che la fine. E il Corriere della Sera gli dedicò una pagina intera per dimostrare che non c'era libertà, non c'era responsabilità, quindi la corruzione illecita, non so bene cosa. E questo è un miglioramento degli esperimenti di Libet. In verità la cosa non è tanto semplice. In primo luogo ci sono un sacco di problemi metodologici. Per esempio la valutazione del tempo soggettivo non è uguale. Quando io devo avere autocoscienza, notare quando ho un certo desiderio di premere il bottone, guardare che momento è, dire questo momento, e sono almeno tre eventi diversi. Questi i tempi della coscienza non sono così puntiformi come quelli della risonanza magnetica funzionale. Però al di là di questo, pensiamo un attimo a che cosa chiede questo esperimento. L'esperimento chiede, dice, quando sentirai, il prossimo minuto, quando sentirai l'impulso a premere uno dei due tasti, e nota che momento è. Bene, sentire l'impulso a compiere un'azione non è né condizione necessaria né condizione sufficiente di compiere un'azione libera. Non è condizione necessaria, io compio un sacco d'azioni per cui non sento un impulso a compierle. Per esempio adesso parlo. Oppure, per esempio, quando guido, oppure non è che un ragazzo che decide di iscriversi all'università sta là che pensa, poi sente l'impulso, si iscrive a geologia. Non è così, non c'è l'impulso. Quindi non è condizione necessaria e non è neanche condizione sufficiente, perché tante volte noi sentiamo, ecco, per esempio Massimo Dell'Utri adesso in prima fila si sta grattando la testa mentre io parlo. Quella ha sentito l'impulso, l'ha fatto, ma certo, pensandoci... Quello era prevedibile, già 10 mesi fa. Oppure qualcuno che adesso dovesse fare un enorme sbadiglio, cerca di vincerlo l'impulso, tutto al contrario dell'azione libera. Quindi, nell'articolo, l'articolo si intitola Free Determinants, no, scusate, Unconscious Determinants of Free Decisions in the Human Brain, determinanti inconsci delle decisioni libere nel cervello umano. Beh, questa decisione non è libera, perché appunto, essendo legata all'impulso, è di tutt'altra natura. In più non è neanche una decisione, non è neanche una decisione, non è una vera decisione, perché se c'è una cosa che ci insegna la teoria delle decisioni è che ci sono decisioni quando ci sono alternative, scelte, preferenze, per cui noi dobbiamo mettere gerarchie di preferenze alternative e stabilire quale preferiamo. Ora dovete dirmi quale preferenze ho, premere destra o sinistra, non me ne importa nulla, proprio nulla, anzi di più. Direi che questo è un tipico gesto automatico. Noi premiamo con i computer, macchine a scrivere, decenni che gli esseri umani premono decine di bottoni. D'accordo? E chiaramente parte un modulo automatico. Cosa me ne importa di quale premerò? Non ci sono preferenze, non ci sono decisioni da prendere. Quindi non è neanche una decisione questa che dimostrerebbe il fatto che non siamo liberi. E poi se uno va a leggere bene l'articolo, si accorge che in verità questi possono prevedere quale bottone premerà con il 60% d'approssimazione. Più del caso, però considerando che tipo d'azione è, mi sorprende che non sia di più, Perché io direi che è l'indice, francamente. L'indice più comodo. Penso che io indovinerei più del 60%. Oltretutto, un esperimento del genere è compatibile con tutte le principali teorie della libertà. Cioè, certo, quella che dice che la libertà non c'è, ma anche quella che c'è, è la teoria, per esempio, di Leibniz e di Hume, che dice che la teoria è compatibile, la libertà è compatibile con il determinismo. Semplicemente basta che uno faccia quello che vuole fare, anche se la volontà è determinata. Se anche fossimo del tutto determinati, potremmo essere liberi secondo questa concezione. Ma è compatibile anche con l'indeterminismo. Concezioni che dicono, tipo, certa agitazione del pubblico. No, non c'è agitazione. Tipo, John Searle ha scritto un libro che dice, guardate, dobbiamo immaginare che ci siano eventi indeterministici nel cervello. E beh, il 60%, il 40% è indeterminato. C'è spazio persino per quello. Quindi questa teoria che dovrebbe dimostrare che non siamo liberi, non c'è la responsabilità, non c'è la razionalità, in realtà non dimostra nulla. E però ha avuto un successo enorme. Questo gruppo avrà parlavo con un neurofisiologo, una quantità di finanziamenti che noi poveri filosofi ce li sogniamo grazie a questo esperimento. Perché? Perché c'è questo paradigma oggi vincente che dice che c'è soltanto quel tipo di naturalismo riduttivo che a me non piace molto e che però è la visione imperante. Cioè tra le due visioni un po' unilaterali, quella che dice che c'è alla Goethe, c'è azione ma non c'è scienza, e quella che dice c'è solo la scienza, ecco, tra queste due unilateralità io penso che bisogna stare nel mezzo, come provava a fare il povero Immanuel Kant. Grazie.